Anche gli stranieri senza permesso di soggiorno possono usufruire di questi servizi. Per accedere al CERT non serve la prescrizione del medico curante, è sufficiente essere muniti di un documento di identità e di tessera sanitaria o per gli stranieri senza permesso il codice STP, cioè straniero temporaneamente presente, che qualora non ancora attivato verrà rilasciato direttamente dal CERT. Nei CERT è garantito il pieno rispetto della privacy, cioè i tuoi dati sanitari non verranno divulgati né segnalati ad altre istituzioni. Troverai medici, psicologi, assistenti sociali, educatori che insieme a te cercheranno di valutare il problema e di trovare la cura più adatta. A partire dall'accoglienza si programmeranno tutti i successivi incontri necessari per formulare una diagnosi ed attivare gli interventi di cura. Per conoscere gli indirizzi e gli orari dei CERT, consulta il sito dell'ASL www.asl.como.it. L'assistenza garantita agli stranieri. Per accedere ai servizi sanitari, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono tenuti ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale o ad avere una copertura assicurativa sanitaria privata. Per iscriversi al sistema sanitario bisogna recarsi presso gli sportelli di scelta e revoca dei distretti dell'ASL di Como, dove è possibile scegliere il medico o il pediatra di famiglia. Successivamente all'iscrizione verrà rilasciata la tessera sanitaria Carta Regionale dei Servizi. Per conoscere indirizzi e orari di accesso degli sportelli consulta il sito dell'ASL www.asl.como.it. Qualora gli stranieri non siano regolarmente soggiornanti, possono comunque usufruire di cure urgenti o essenziali, mediante l'attribuzione del codice STP, straniero temporaneamente presente, che può essere rilasciato dal pronto soccorso degli ospedali e da altre strutture erogatrici di prestazioni sanitarie. Gli stranieri che rientrano al paese di origine per le ferie o per motivi di salute possono facilmente contrarre malattie pericolose. Anche gli immigrati si adattano all'Italia e possono ammalarsi più frequentemente dei loro parenti. È utile, prima di partire, chiedere un colloquio con il medico dell'ufficio di profilassi internazionale dell'ASL per sapere per quali malattie è consigliato adottare un sistema di prevenzione. Per conoscere indirizzi e orari di accesso degli ambulatori consulta il sito dell'ASL www.asl.como.it. Il consultorio familiare. Il consultorio familiare è un servizio che ti offre un'accoglienza personalizzata, con consulenze e prestazioni specialistiche sulla sessualità, la contraccezione, la gravidanza e il percorso nascita, l'interruzione volontaria di gravidanza, la menopausa e la prevenzione delle patologie tumorali alla cervice uterina e al seno. Offre inoltre supporto psicologico e sociale per il disagio individuale, le relazioni di coppia e familiari, l'adolescenza e l'età giovanile. Per accedere non serve la prescrizione del medico curante, è sufficiente essere muniti di tessera sanitaria. Per conoscere indirizzi e orari di accesso ai servizi consulta il sito dell'ASL www.asl.como.it. Le donne straniere in gravidanza che non siano regolarmente soggiornanti possono comunque usufruire dell'assistenza medica offerta gratuitamente dal consultorio e dall'ospedale per assicurare al proprio bambino di nascere sano. Il certificato di gravidanza garantisce un permesso di soggiorno temporaneo per tutta la durata della gravidanza e fino a 6 mesi dopo il parto. In ospedale il ricovero. Il ricovero in ospedale è disposto dal medico quando realmente necessario. L'organizzazione ospedaliera si adopera affinché ogni paziente trascorra le giornate di degenza in una condizione il più vicino possibile ai ritmi abituali del quotidiano, in un ambiente pulito e confortevole. Viene inoltre garantita una dieta quotidiana compatibile con le condizioni cliniche di ogni assistito e il più possibile rispettosa delle sue convinzioni religiose. Quali documenti occorrono per il ricovero? Documento di riconoscimento, carta d'identità o passaporto, tessera sanitaria o polizza assicurativa, permesso di soggiorno o codice STP per stranieri temporaneamente presenti non appartenenti all'Unione Europea, impegnativa del medico o dello specialista. Che cosa portare? Effetti personali strettamente necessari quali spazzolino da denti, dentifricio, sapone, deodorante, biancheria personale, vestaglia, pantofole, asciugamano, eccetera. Eventuali esami ematochimici, accertamenti diagnostici e cartelle cliniche di precedenti ricoveri ospedalieri. eventuali farmaci assunti abitualmente, cosa non portare, oggetti preziosi e grosse somme di denaro. Si ricorda che la direzione ospedaliera non risponde di eventuali furti o ammanchi di denaro ed oggetti personali lasciati incustoditi. L'invalidità civile. Possono essere riconosciuti invalidi civili i cittadini affetti da un'infermità fisica, psichica o sensoriale, sia congenita che acquisita. I cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, residenti o domiciliati nella provincia di Como, possono presentare domanda di invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità. La domanda dovrà essere presentata all'INPS esclusivamente per via telematica. Si consiglia di consultare per le modalità di presentazione della domanda il sito www.inps.it, sezione Invalidità Civile. In base al grado e alla tipologia di invalidità riconosciuta, all'età e al reddito del richiedente, sono previsti diversi benefici, sia economici che socioassistenziali. Il riconoscimento di invalidità per i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno dà diritto ai soli benefici non economici, quali ad esempio le esenzioni dal ticket, la fornitura di protesi e ausili e tutte le agevolazioni previste dalle leggi. Sto male, dove trovo un medico? Se hai il permesso di soggiorno, il medico di medicina generale o per i bambini il pediatra di famiglia sono a tua disposizione 5 giorni alla settimana. In caso di necessità, il medico curante può valutare l'opportunità di venire a visitarti a casa. Ogni medico ha i suoi orari per le visite ambulatoriali e un numero di telefono per le chiamate urgenti. Il tuo medico ti visita gratuitamente. Quando serve uno specialista, il tuo medico scrive la richiesta su una ricetta rossa, impegnativa. Con l'impegnativa e la tessera sanitaria puoi fissare un appuntamento per la visita specialistica contattando il numero verde 800 638 638, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. Per le visite specialistiche, tutti i cittadini partecipano alla spesa sanitaria pagando un ticket. In alcuni casi, i pazienti non pagano perché esenti per età, reddito o patologia. In questo caso bisogna essere nell'apposito tesserino rilasciato dagli sportelli di scelta e revoca dell'ASL. Il servizio di continuità assistenziale o guardia medica garantisce l'assistenza sanitaria di un medico per i casi non gravi, di notte e nei giorni festivi e prefestivi. Con la tessera sanitaria puoi andare agli ambulatori tutte le notti, dalle ore 20 alle 8 del mattino successivo, nei giorni festivi e prefestivi a qualsiasi ora. Oppure puoi telefonare allo 840 000 661, costo della chiamata euro 0,075 più IVA. Bisogna recarsi al pronto soccorso solo per i casi gravi e urgenti, un incidente, malore improvviso, soprattutto dei bambini e degli anziani. Il 118 è il numero di telefono con cui puoi chiedere che un'ambulanza venga a prendere la persona che sta male. Il pronto soccorso e il 118 sono servizi gratuiti. Chi non è in situazione grave e urgente, codice bianco, verrà visitato per ultimo e pagherà il ticket.